Siamo con l'autore e attore Simone Perinelli per parlare del nuovo appuntamento con lo spettacolo Luna Park. Do you want a cracker? Simone, ben ritrovato. Grazie, sempre un piacere stare con voi. Eccoci qua, di nuovo. Allora, intanto lo raccontiamo a chi ci ascolta, diciamo cos'è questo Luna Park. Allora, Luna Park è uno spettacolo, diciamo, che abbiamo prodotto noi, The Via del Fool, nel 2013. È un testo mio, una drammaturgia originale e su una rivisitazione. Rivisitazione di Don Chisciotte di Cervantes, però in chiave contemporanea. E è uno spettacolo a cui teniamo molto, perché va a chiudere una trilogia, no? Anche se poi i tre capitoli di questa trilogia, che è la trilogia dell'essere, possono essere visti, insomma, separatamente. Però andando a chiudere diciamo, questa trilogia per noi chiude anche un periodo, no? E una ricerca che noi abbiamo fatto. E, appunto, parlo della trilogia dell'essere, Luna Park, il terzo capitolo, che è uno spettacolo che cerca di dare delle risposte alle domande fondamentali, no? Sì. Esistenziali. E di conseguenza non ci sembrava abbastanza. Diciamo ovvio che le uniche risposte potessero venire da Don Chisciotte, appunto, che è un personaggio chiave, no? Se vuoi, anche di tutta la nostra poetica e del nostro linguaggio, come posso dire. Quindi è un lavoro a cui teniamo molto. Sì. Rispetto a Cervantes e il Don Quixote, quali sono gli elementi su cui hai puntato e poi come hai lavorato in una vista della trasposizione? Allora, io sì, perché poi praticamente parliamo di un monologo, dove sono in scena, dove praticamente è una drammaturgia mia. E di conseguenza, ecco, noi, io, appunto, scusa, la schizofrenia, appunto, Don Chisciotte. Diciamo, sono partito dal testo, ovviamente, dal testo di Cervantes. Ho visto, diciamo, che c'erano, diciamo, dei punti, toccava dei punti fondamentali, come quelli, appunto, dell'immaginazione, o delle chiavi poetiche, insomma, che sono presenti all'interno del Don Chisciotte. Ho inventato un personaggio, che è un Don Chisciotte metropolitano. Fondamentalmente, ho detto se oggi, diciamo, se ci fossero dei Don Chisciotte in giro per la città, in questo caso a Roma, visto uno spettacolo ambientato a Roma, forse sarebbero dei Don Chisciotte che abitano sulla tangenziale est. Sai, noi, diciamo, in questo spettacolo c'è presente questo tema della tangenziale est di Roma, e fondamentalmente c'è questo personaggio, questo nostro Don Chisciotte, che va in giro a piedi sulla tangenziale est di Roma alla ricerca di Dio durante la notte. Insomma, queste sono le sue notti, le sue nottate passate alla ricerca di Dio sulla tangenziale est. Sì. Dopodiché abbiamo collocato un Don Chisciotte, cioè quello proprio di Cervantes, cioè oggi dove si trova, dov'è oggi Don Chisciotte. L'unico posto possibile è la Luna, l'unico posto per Don Chisciotte. Quindi avevamo questi due elementi, che sono la tangenziale est di Roma e la Luna. Una luna che immaginavamo così, deserta, a parte tre mulini a vento che non girano perché sulla luna non c'è vento, e un uomo che urla, forse Don Chisciotte. Quindi abbiamo praticamente, questa tangenziale è diventata poi un ponte che ci collega alla luna. E fondamentalmente, infatti, lo spettacolo è pieno di riferimenti a livello fantascientifico e, come posso dire, e anche scientifico. Parliamo di distanze, parliamo di stelle che muoiono ma continuano, diciamo, a emanare luce, perché, no? Tutto tutte quelle, tutti quegli argomenti che ci interessano e che spesso affrontiamo, no, nei momenti, diciamo, più poetici della nostra quotidianità, no? Quando ci soffermiamo a guardare il cielo stellato, quando ci soffermiamo a capire, diciamo, che cos'è effettivamente il tempo. Quindi la cosa è andata così. Io avevo questo elemento fondamentale che era la tangenziale di Roma, e l'altro elemento che è la luna, dove c'era questo Don Chisciotte che urlava. Mi sono domandato più volte se era giusta questa collocazione della luna per questo personaggio, e poi un giorno, vedendo un film, proprio mentre scrivevo, vedendo Solaris di Tarkovsky, mi sono reso conto che, ora non mi ricordo bene la scena, ma a un certo punto aprono un libro mentre vanno, appunto, si dirigono verso Solaris, aprono un libro, e questo libro è Don Chisciotte, no? E ho detto sì, allora sono sulla strada giusta. Don Chisciotte non è su questa terra in questo momento, è andato a finire nello spazio ipergalattico. E quindi, diciamo, poi lo spettacolo, diciamo, mira ad un incontro possibile o impossibile tra il Don Chisciotte della tangenziale est e il Don Chisciotte che abita sulla Luna, secondo il Don Sì, Chisciotte originale. sì, sì. Senti Simone, in chiusura fa riferimento il sito internet Le Vie del Ful e la pagina Facebook. Certo, pagina Facebook Le Vie del Ful, altrimenti www.levievedelful.com, dove ci sono, diciamo, tutte le informazioni. Bene, allora un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, un abbraccio e a presto, e crepi buco. Ciao. Ciao, ciao, ciao.